sempre quell'agenzia li mandava le cose, sempre in quella zona lì. Dove c'è stata, ha buttato in bagà un po' di cose. Gli allacci, quelle robe lì. Vabbè, è un bel casino, Giulia. Noi per avere questa abbiamo sudato tanto, Allora gliel'ho abbassato adesso a 2,60. Buono già. Quanto è manna? Sto zene, c'è la cucina, il bagnetto e poi so palco per andare a dormire, si può immaginare. E com'è questa, Questa qua, ma ora mi sono pure rimau mau in chimino. No, a fianco a lui abita un pakistano. Qui, ma che cazzo pakistano, peggio è. Prega. Beh, c'è la medusi, ancora occhi sì. Sempre occhi già, sempre occhi. No, io che faccio di mau mau, canta prima gli anni non si può fare, mamma mia. Puzza. Ma leva non vedo. E ha la pelle, è un odore strano. Ma l'unico vantaggio che ho che mi pare che no, non mi sono rompicattoli. A poi dare che si programmi, ma poi no, l'ho provata ma alta potenza con la mia. E non disturba. Io che poi dare tutti che si programmi, tipo, ogni altro si intendi. Pare che vi sia l'Africa ai nonghi. Guarderanno quelle TV loro. No, vedevo, ci pare che mi siano i scimmi, intendi che c'è cosa? Chiamate ad inteso. Che cosa del genere? A gioca a faccia da Ianna, dite cosa fa lo zoo in occhi. C'è che sono se la riprendi, con la moglie. Magari è buccio viso, ma fa confondere te. Lo sai che questi sono un riasciabbo nelle mani. Sì, non ti credi, no. Ma non è tutto tutti così, no, è come noi. Sta sicuro che cioè, se è come noi, viso bianchi che fanno la sciabola, che manna, come ti dici tu, e viso bianchi che verranno in normale, che di piccinetta. È tutto il mondo, il paese per me. Però io, tanto è stato a te, l'occhio dello spioncino non glielo avrei messo. Dammi una putta a me, puni l'occhio dello spioncino, vedi? Ah, buon ginocchio, l'occhio, non la putta assai. Discorsi pornografici stavolta. Sono puliti, non sono pornografici. Scusa, E tu cosa fai? Se per la femmina neruletta ti abbaidi. E che cosa bisogna farmi, mia dante? Una ligiata, che cosa? Io me la guardo e basta. Sì. Ah, vai che ti lampa tipo tarda, a me impara con i sciti. L'attore tanta, che la prima si era attaccata, invece che era l'aliana si era attaccata la pizzola Giulia. Di che sciabole ci ti fa vedere? Di che sciabole? No, di tarda. Ah, di Tardanetto? Attenzione. Lo dizendi. Ma è tu Ducla che candele giovane e faccia piruretto. Tipa, invece che attaccarsi all'aliana, sbagliate, si è attaccata la bizzola. Ah, così, Sei tu Ducla che candele giovane e faccia piruretto. Io? Chi? Lei carino, salto da leone e ha giovato. Ha sbagliato una volta al giorno, ha sbagliato l'armadio, ma no. Tanto mi piace di altro di così bucaccioni, uia. È bucaccione, sto parlando pulito, non è che. Mica te ne faccio buttare fuori all'astra a me. All'astra? Aia. Chi è che c'ha? All'astra. Carica il microfono, quello che questo è con le malatottino, gli ho fatto le connessioni al circuitino, gatto. Per amplificato ma è cupa, barattolosa, più bella l'altra. Ma tottino, due puntello così, vabbè, poi ho toccato il trimmerino un attimino, però sarà caduto. No, la voce già è forte, però io la sento cupa, impattata. Come la senti tu già? Ma non è male, dai, qua, non è male. Diciamo che non è chiara, però non è male. Non è male, però lui poco fa stava provando un altro microfono. Ed era più chiara la modulazione. Anche questa va bene, però l'altra mi piace di più. Adesso ho passato il Mac Key, un mese a 5, però al massimo, con i trimmer tutti aperti. È migliorato un po', lasciala così. problemi, no? Di, cioè ce lo devo lasciare a vita, no? Che perché? Però riprendete. Non è male, va bene comunque, già è abbastanza buona. L'ultima vita dice. Ho detto lui, di fare una scatola e dopo usare con tutti gli apparecchi. Sto pensando di metterlo, cioè l'ho messo a 50, però va bene, ma secondo me basta cambiare la capsula a 50. Ma quanto è quella capsula? Le originali ci sono qua nel 50. Mm. Ma lì qualche capsula di quei 50 devi provarla una per una, magari ce n'è una che va meglio, perché secondo me ce l'ho già vedi, guarda la mia è una canna, io ti attacco, stacco il 60 adesso, ti attacco il 50 e non cambia, chiaramente devo aumentare un pochino di più il mix gain, però la modulazione è quella, invece quelli che hai tu, secondo me ti hanno imbuttato le capsule di voi. No, sono tutte e tre, mi ha dato tre gelati, tutte e tre uguali sono le capsule qua. E nelle capsule ci sono saldati 1, 2, 3, 4 fili. 1, 2, 3, 4 fili sono. No, già sono gli originali che magari. Ora proviamo a mettere una di quelle dei microfoni, quelle rotonde classiche verdi, dei microfoni preamplificati. Provo una di quelle. Io qualche capsula rotonda grande ce l'ho, ma non entra nel 50. Sono capsule tipo il Dame più 3, micro capsule così sono. È strano che ci sia così male questo 50, vabbè che intanto la mia intenzione era restaurarlo e venderlo. Vabbè, poi li vendi tutti e tre, no? Tu fai un blocco, tutti e tre assieme, revisionali tutti e tre però, e li metti a 50 l'uno, a 70 l'uno, già si possono comprare a quel prezzo, perché è quotato 1050, è già introvabile, io ce l'ho nuovo, che ne avevo uno e l'avevo dato, poi l'ho ritrovato e me lo sono ripreso. No, solo il 50 con un gelato, altri due vi regalo. Intanto ne ho risolto solo uno di gelato, mica tutti e tre. La puoi fare così, scusi, buono, 70-80 euro si può comprare, anche perché è nuovo nuovo, quindi già funziona. Funziona un bel bene, io te lo attacco, funziona, ma c'è un altro. Sei al cioccolato panna, lo prendo io. Cosa? Sei al cioccolato la panna, lo prendo io il gelato. No, a te ti diamo un altro gelato. No, lì se te lo vuoi amare tu di baracco. Ma tu se ne sai che cosa ti volevo dare io di gelato? Boh, al tiramisù, non ti piace? È buono. Mi dito la bocca, ma l'ho fatto tempo io. Avanti. Se tiramisù va bene, se altro tiramisù non andava bene. Quindi mi ha detto, mi ha mangiato mezza vaschetta con mia moglie, perché lei ne ha voluto. Ci ha portato lì. C'eravamo a pranzo, c'erano i cornetti di gojo, i bori, i gannoli siciliani, i carotti, i rodolamesciù, boh, gli stanno cercando tutta la settimana luce che non ne mangio bimba. Sì, io già mi piazzi, io me lo mangio. Ma ringrazio dei sofferenti. Io non ho tutta la settimana, perché è chiuso domani il bar, già capito, quindi ho portato un po' di roba. Beh, tu già ci vai spesso dall'aria, altro, quindi... Io fa messaggiare il tiramisù che ha mangiato Claudio, già te lo vado, a colazione, mi ci mangiate la bassa, ti mangi il tiramisù. Questi giorni, ma ce l'hanno loro dentro. Questi giorni che ci stavo passando c'erano sempre quei ragazzi. Perché l'aria era di sera, capito? Dalle 2 in poi. Dalle 2 fino alle 6, poi andavo io a prendere. E gli altri due si arrangiavano la mattina. Perché c'è ancora mia moglie non sta bene, io non posso stare fermo a casa, io ho tante cose da fare, vorrà anche nominare mio cognato che è là, vai di pomeriggio al bar e la mattina rimani con mamma che fa le pulizie e tutto, capito? E io vado da noi, non è fa sport, non ne frega niente, cosa delle mani in chivio a becca, sta andando a torrente, babbate un caffè alla porta, ma vai, non diciamo, ne frega niente. Lascio chiuso e basta che si arrangino. No, io andavo verso le tre, cioè verso le due e mezza e c'erano sempre quei ragazzi. Non la vedevo io l'aria, stai sbagliando. Forse lei veniva andava la mattina o un altro orario. Ah, e allora tu sei capitato in quei giorni che stavo andando di mattina e poi ho chiesto io di andare di sera per sì, allora stava facendo l'apertura, andava a lasciare le due, andava a scendere le due, faceva, capito, e poi rientrava a casa. E vabbè, allora, quindi devi già rimanere al ratto, che è rottura di balle, guarda. Ma poco ne siamo usciti, tutte le sedie di nuovo fuori, tutte pulite, lavate, messe a posto, alla porra butti dentro, mamma mia, quanto immagino che balle viene. Ah, poveracci, ma quando, ma quando mai? Cioè, ma cavolo, sono ragazzi, sono giovani, hanno bisogno di lavagliare, cioè cavolo, li fai chiudere il bar, li stai danneggiando, li stai rovinando l'esistenza, cioè li stai proprio rovinando, incredibile qua, non ne ha fatti nulla, tanto è di ogni 27 verano lo stipendio. Hai detto bene, vabbè, come fai a finire il malumore, dai, che c'è passato, abbiamo festeggiato così oggi, un po' di dolci, un po' di cose, ci abbiamo il gufo, ci abbiamo il vengo. Ma che saluti, va, la Mongolino. Ciao Ilaria, ciao! Allora, ripassaggio qua, era già arrivato. Allora, il problema me la dice tutta io, quindi si a casa, ma come la sapevi a casa Giulia, ne ha dato? Per caso ieri dai cinesi era. No. Dai cinesi eri ieri? No, no, non ci va. Ti sei confuso, anche un cazzo. Dai giù, tu lascia. Poi ieri stavo lavorando fino alle 7. Da cercare da Vernello, a te. Cazzo, non li vedi da Vernello? Non li vedo da Vernello, non mi piace a me che sa cosa. La birra bevo, e lo vino va che vuole, ma vino buono, da Vernello non mi piace, no. Hai capito già, Roberto Antonio, eh? Al bar dei top, va, capito? A vedere le chiappe chiare. Antonio, l'occhio. Ah, ma vado lì perché mi viene il passaggio, mi viene il Seng, che cosa lo Peter, a me mi piace così, ma il Seng fa i cittadini a scuola guida, capito? Ma Carlotta ti piace la collega di Laria? Cosa? Carlotta ti piace la collega di Laria? A già piace il ragazzo. A Simone, ci guaccio. Ci ho conosciuti i miei, capito? Sono quattro soci, ma io non sapevo niente, volevo mettere aria, che l'ho visti a Gran Fabi. Vabbè, se si piacciono, meglio così, sono ragazze, è una bella ragazza però è piccola, cioè io poi c'ho la Sara, a me da me pongo, siamo, magari fra poco tempo siamo con Juventus, cioè mi pongo a... No. Quanti anni hai tu, Anto? 16 anni c'ho io. 26? 36. Che è 36? Sì, che è come Iena. No, Carlotta c'ha... Quanti anni ha Carlotta là? 21. 21 anni. E Simone? 21. 21, no, tutti e due 21 anni. E vedete, più grandi sono Enzo e Ilaria, di quel bar. Gli altri sono due ragazzini. Lascia rivivere, ah già, 21 anni, attinamente c'è quasi a me a 21 anni noi. Mi ha detto, vabbè, e un poco d'anni sono passati, dai. Meglio che passino però, dai, se passano vuol dire che sei vivo. E si conferma, pensavo di più piccolo, Antonio, pensavo di più piccolo, cioè l'età di, no, Mario ne ha 37, 38, ne fa. Più grande Mario di te. Gappa gappa. Vabbè. Ma tu immaginati che due ragazzi ci stanno giocando la bizzillia, capito? Per introdurci, perché sono da ragazzini, hanno dato preghiera con mia figlia, hanno fatto tutto il percorso, c'era mia figlia, poi erano a Mechidona, da ragazzini sono nel vettoro, capito? E ora aveva 14 anni. Quindi una 34, perciò, capito? E tu immaginati cosa tocca fare i bizzini, cioè investono quattrini per fare che cosa? Ma rimani a casa. Ma lascia proprio, non ci voglio pensare, cazzo, non ci voglio pensare. Capa. Cosa vuoi fare? Bizzini. sono bettini giovani. Cosa vuoi fare? Appunto, sono bettini giovani. Hanno investito per avere, ma per il momento non c'hanno niente. E Vari aveva già investito prima. Ha iniziato prima di loro, quindi qualcosa ce l'ha. Ma questi proprio ancora non hanno costruito niente perché non c'è la possibilità di costruire niente. Perciò, K K di Rogero. Ti già riprendi, va, che mi biglio, mi apro la finestra, mi fumo una sigaretta qua dentro, va. Non fumare che ti va di male. Sì, poi ci sono momenti. No, io vengo qua, mi apro la volgibile. Facciamo entrare un po' di aria. Ho già attaccato, lo sommergibile mi già, domani, perché è asciutto, bello, però il colore non mi piace. Ho già messo una salone. E domani mattina lo portiamo a rifare l'altro colore. Lo faccio grigio scuro tenud. Capito? Grigio scuro tenud lo faccio. Tipo il tipo lo standard. Il colore della standard è del 74, lo stesso con la radio. Quella radio la sai chi era? Di Giancarlo Baffigo. Ancora Giancarlo Baffigo, sì, in piazza che vendeva negozio di armi. Giancarlo Baffigo era quella radio, del 1974, originale, mai toccata, se la pesce bene. Ma quale? Quella che hanno dato a te? Allora, me l'ha data proprio lui, anzi, me l'ha fatta avere, perché lui era già morto, me l'ha fatta avere un carissimo amico. E mi ha detto, questa è la tua, è quella mia, no, io non mangio di chi te dai, no, questa è la tua. Mi ha raccontato, mi ha detto, mi hanno detto di darla a te, io ce l'avevo a Porto Torres, capito, quando è morto Giancarlo. E mi hanno detto che questa radio è la tua, e ce l'ho io, ed è, non si tocca manco a pagarmela a prezzo d'oro. Una cosa che già mi ha fatto male quando mi ha detto così, perché sembrava che mi stesse dando una cosa perché lui doveva morire. Molto amici con Giancarlo. Vabbè, mia sorella abitava attaccata a Giancarlo Baffigo, proprio con la casa, adesso c'è il vecchio, il portone grande, dove ogni anno fanno la lotteria lì, le suore, quella delle suore, lì ci abitava mia sorella, quindi. E vabbè, e ce l'ho io, questo è uno standard GP2 della 27, e tu immagina che non c'ha neanche 23 canali, c'ha 12 canali. Che marca è? Uno standard, anche VHF, VHF lo standard, capito? Questo è 27, c'ha AM, FM, e basta, 12 canali, base mi, a 220 e 12 volts, e dice ok, molto bello, non l'hai mai visto, una volta ti ho mandato la foto. No, non me lo ricordo, e vabbè, comunque. Falla nera a casa, se vuoi un consiglio, invece che farla grigia, falla nera direttamente. Ma c'è consultato? Perché c'è anche il frontalino nero, poi diventa cazzo un pipistrello sulla radio, voglio staccare un po'. Di solito vedi anche gli altri, i frontalini neri, col grigio, stacca un po'. Grigio scuro che è bello, c'ho due bomboletti che mi sono fatto arrivare, a usare. Uguale, fate fare apposta, Grigio che vuole. Se io vernicio per dire i tappi del 430 che lo volevo fare nuovo, ma già è nuovo, c'è solo qualche graffiettino, non li faccio. Ma è originale, mi sono fatto arrivare due bombolette da fuori dal continente, Grigio che vuole. Ecco un attimo. Vai, chi è? Ha detto bianco forse. L'hai già annunciata Roberto. Aspetta che c'è uno che ha chiamato la folla, non ho capito chi è. Avanti? Ciao Daniel Orizzano, buonasera, ben ascoltato, baci e abbracci e buon fine domenica, com'è il tempo lì? Cappa Daniel, lo so, il tempo è brutto, qua c'è, si è fatto un casino nero, quindi sono in compagnia di Gianni Doppio Roma, peccato che non lo senti, comunque ti saluta cordialmente, non lo senti no già Daniel? Daniel, ciao, buonasera, se mi stai ascoltando. Gianni Doppio Luna da questa parte, avanti. L'hai sentito già? Santiago 3 e mezzo, ma la radio è bassa, non riesco a percepire quello che dici. Cosa ha detto? Che ti ho segnale 3, 3 e mezzo, però non riesce a capire quello che dici, e qua arrivi, vabbè, c'è quasi 9, quindi non ho problemi ad ascoltarti. L'importante è che senti, l'importante è che senti qualcuno ogni tanto da Sassari, Dani. Siamo tu corretti. No, lì a Muros c'è Gianni Capridue che abita, Giovanni e Lima 1 sono Ottieri. Ah, Muros devi andare con la barra pesante domani, e allora fatti sentire, mettiti baracchino in macchina e fatti sentire, Daniel. No, io pensavo volevi sapere che c'era Muros. Ho capito. Ti ripasso Gianni, vediamo se non riesci a pompare ancora di più, no? Già. Io le stavo 300 watt. Ci dico sì, 90. K. Mi dispiace Dani, che il radio non ti ascolto perché c'è un QRM, capito? C'è un QRM qua, che arrivi quasi al livello del QRM, quindi il radio non ti ascolta. Se ho il segnale 3,5, ti ascolto come segnale. Hai sentito Dani? Poi che lui c'è QRM, non ti ha sentito adesso. Casino, come c'è QRM. Ho attaccato anche l'amplificatore all'antenna per essere sentito. K Daniel, K. Ascolta, ma è a Muros perché devi scendere domani, cosa agganci tu? I frighi di Eurospin? No. Sì, ho capito. RCM devi andare, ho capito. No, vedi benissimo qua, non c'è problema. Sei tra il 7 e 8 con questi B, a volte anche 9 arrivi. Non c'è problema, ti ascolto benissimo. Dani, mi dispiace che non senti con tutta la cocchetta che sta usando, non l'ho sentito mai così forte a Gianni, proprio sta andando al massimo delle sue forze, ma purtroppo la distanza c'è, lui è molto più in basso, giù nella bassa valle, e quindi non riesce ad ascoltarti molto bene, anche perché c'è un sacco di QRM oggi, Dani, capito? Lo rimando avanti, vai Gianni. Ehi Dani, dai. Ti saluto, ti mando un 7351 a te il QRA, mi dispiace che non ti ascolto, però magari le prossimine, se c'è meno QRM, ci possiamo anche ascoltare, vai. Ciao Dani, dai un abbraccio grande, se coincide ci aggiorniamo domani, ok? Ti saluta Gianni cordialmente, già non ti ha sentito adesso. Arrivi proprio a livello di QRM e non riesci a capire quello che dici. Ok, ma non te ne fare una ragione perché non arriva né Roberto né Antonello da lui, quindi sono qua. Perciò è proprio arrivo io perché sono apertissimo per quella zona, per il Campidano non c'è niente da fare. Ok, dai, va bene Dani, ci sentiamo allora e ci aggiorniamo, eh? Un abbraccio di nuovo, ti saluto anche Gianni doppio numero, mi dispiace che arrivi così bassino, ma speriamo di poterci riascoltare alle prossime. Ciao, stammi bene, buon fine domenica anche a te e un saluto cordiale al QRA. Ok Dani? Ciao Daniel, ciao, un abbraccio, a presto, vai già, abbaccia che mi faccio il medico. Ciao, stacca tutti. Ciao Daniel, ci sentiamo, dai, buona serata e tante cose belle, se mi stai ascoltando. Vediamo un po' se rientra tanto. Ma puoi fare una ragione già, perché non c'è niente a fare. Abbiamo fatto le prove con Roberto, con Antonello, non li sento. Arrivo solo io lì da lui. Lui tra l'altro è al centro di Riccano e non è molto alto. Però arriva benissimo qua, aspetta, arriva una schioppettata, arriva. Vado a fare un monumento, ho detto barazzo. Non ti trasferisci da lì? No, beh, abbiamo delle cose che stiamo vedendo già, perché una volta venduta la casa di San Francesco, qualcosa è entrata, quindi dobbiamo vedere, stiamo verificando, non lo so, stiamo vedendo, stiamo cercando di capire se o no, però non lo so, e guarda che se mi trasferisco in campagna, da lì c'è la forte, non è che ci siano molte differenze, non lo so, dove è più alto, se è più alto lì o più alto qua, però qua io sto bene, non mi interessa. Tutto va a vedere, stiamo meditando, anche poi c'è la casa di Messu Civitri, che vedi per lo stesso, c'è il terreno di sotto il Cuga lì, di Caparreddu, lo stesso, e ci sono un sacco di cose che stiamo vedendo, dai, comunque, piano piano, si vedrà. No, ma io ti ho detto nel senso che lì, come zona per per farsi sentire è micidiale, capito? Per quello te l'ho detto, no, perché voglio sapere le cose tue, perché volevo sapere, perché ho detto già ti trasferisci da lì, come dire, che non lo vuoi quel palazzo perché arrivi da tre parti bene. No, io ti ho risposto in base alla domanda che mi hai fatto, ti ho detto la casa è sempre in vendita, però stiamo meditando. Meditando nel senso che se la vendo come dico io, sì, se non rimango qua. Oppure se non rimango qua me la tengo lo stesso. Chiudo la porta, abbasso il contattore e me ne vado, non è che devo regalarla. Io ho ribagato a fior di quattro di questa casa, quindi. Poi come zona non ce ne può nessuno, non è che siete vero a tutti, ma non perché è così, la realtà è quella. Non lo dico io, lo dicono i fatti, non è che c'è niente da fare. Una zona altissima, molto, molto aperta, non c'è niente, poi va bene, va benissimo. Vediamo un po' se è rientrato Antonio, Antonio c'è ma niente, ancora basta il forno a mezzogiorno. Mi pare che Antonio sta facendo la moneta. Meno sta cantando, Antonio, vieni che giù a ricari. E via. Non è stato nessun altro. No, e stasera abbiamo fatto dei corsi, è stato un po' di gente. Due fesserie, due trofate, due cose, già l'abbiamo passata la serata a casa. Adesso no, e da notte no. La sera a quest'ora, no. Forse fa due chiacchiere Massimiliano, ma ha detto dopo. Che domani non lavora, anche lui è tutto un pantamolo dove è lui, quindi mi ha detto domani non lavora. Antonio già si trattiene sempre un'oretta, io un'oretta mi trattengo sempre, però non è che puoi fare tardi, capito? Io vabbè domani mattina intanto sono tutti chiusi, non ci vado, me lo faccio a casa, il caffè, uscirò per le mie sigarette, andare un'occhiata al giornale e poi me la rientro a casa. Alle 4 ciò da fare alcune cose, devo uscire il pomeriggio, c'è un paio di appuntamenti d'ufficio e poi basta, e poi è finito anche lunedì. Allora io domani non ho neanche a fare un po' di spesa, mi faccio, poi me ne ritorno a casa, anche perché siamo in arancione, non è che puoi stare in giro. No, perché ti prego? Se non le 10 di sera tu puoi fare quello che ti piace. Le attività sono chiuse, bar e ristorante, basta, adesso è tutto aperto, già, non c'entra niente. Zona rossa non puoi uscire, zona arancione ti puoi fare quello che ti piace, sempre con la mascherina, dovute cose, capito? Sino alle 10 di sera tu puoi fare lì subito i piatti. Quindi se devo scendere al portatore si posso scendere? Certo che sì, come perisce. Boh, l'hai visto oggi che c'era il servizio sul portatore, sarà videolina? Via, la linea verde. Certo che sì. Anche io me lo sono visto. Ho fatto vedere San Gabbino, Guardia Lontana, Ponte Romano, un sacco di roba. E vabbè, come? Beh, non male che ogni tanto qualcuno viene in questa zona. Sì, qua ci tengo in considerazione. Avete a Ponte Romano, ho fatto vedere anche il maneggio di Dio Salvatore. E io, Salvatore fa. Padre di Antonella, è la mia collega. Io lo so, mia cugina. Fratello del mamma quello. Ma vivo. Allora, è fratello del mamma del Salvatore. Lo chiamo del Salvatore. Certo che sì. Il fratello del mamma, lui è l'avvocato Falchi, Gianmario Falchi. E poi la mamma di Gavino Gaspa, la mamma di Gavino Gaspa, di Lucia Falchi, capito? Kappa Gappa. Anche a Porto Torre c'è l'abitudine, come anche a Sassari, di chiamare zia Lucia, zia Antonietta, magari non è tua zia, però la chiamare così. Buonasera, amico. Rientrato ero fatto. Buonasera. Cosa c'hai? Ecco, mullato, Dani, quando sei rientrato? Ma ci corre, non ti ha fatto niente lì a San Camillo. A San Camillo? Ma veramente mi hanno controllato la capriola. Non hai capito, ieri è passato un ciclone, è passato anche a San Camillo, ha fatto un sacco di danno, a te tutto a posto. Non ha toccato nulla, Clara, nulla, proprio, buonasera a tutti. L'antenna è come la prima, perfetta. Due radiali, c'erano due radiali ci sono. Uno me ne ha caduto tempo fa e sempre quello con domani lo rimetterò apposta, non lo sto meglio. No, forse qua non c'è passato. Boh. Ciò che è andato dritto a San Camillo, le punte ha fatto strike, hanno fatto un buco di gas. Va bene, tu ci racconti se è andato tutto bene, se hanno rimesso anche l'amico tuo, avanti già. Ciao Tony, buonasera. Ciao, già. Sì, già c'è bisogno già che è venuto a prendersi ieri, cavolo. Tutto ok, tutto bene, sì, giustamente 5 giorni fa mi ero operato, quindi la fritta con la fresca un po' mi fa male, hanno raschiato un po' perché diciamo che l'ernia si era calcificata nella spina dorsale, ci sono state un'oretta, me l'ha spiegato il dottore che mi ha operato, ma tutto sommato seguendo le medicine e mi auguro che passo quanto prima. Comunque sono uscito questa sera in macchina piano piano a buttare la spazzatura, c'avevo un bidone, ya. Ho fatto molto molto molto piano perché avevo paura. Ma tu mi sei un po' arriva, stai facendo? Capa? Allora devi fare, non so per quanti giorni, tu me l'ho fatta per 30 giorni. 8 giorni io, 2 giorni all'ospedale, ieri l'ho fatta, sono 3, altri 5 giorni ho finito. E poi riprendo di nuovo la cardiospirina. Cappa. Andava. Allora lì serve per non far coagulare il sangue. Vabbè. Emanuele, hai sentito? Sì, l'ho anche visto. C'ha un po' di dolori, neanche lui, che lui sta meglio, dai. Da come era prima, adesso è cambiato. Prima era uno zombie come camminava. Prima camminava tutto un culo, da quanto avevi tu. Sì, si dondolava a destra e a sinistra e era gombo. Poverino, ok. È un bel lavoro, lui sono state 4 ore sulla laboratoria. Cappa. Vabbè, dai, piano piano, e ci si rimette a posto. Ascolta, Emanuele come sta? Cosa? Emanuele come sta? Beh, un po' meglio, là. Bombiglio, come la prima sta meglio qua adesso. Niente, lui ha detto, se devo andare da solo non ci sei andato. Io l'ho sfronato e andiamo insieme, dai, grazie a Dio. Ho vinto anche la mia bulito che ritorno, la mia paura, perché non mi sono mai operato. E la paura mia era, c'era, me come. Ma il dolore era troppo, quindi ho detto, dai, mi devo decidere, la faccio e basta, non se ne parla più. E così ho fatto. Ottoni, abbassa per la pera, che sono in cucchia, poi già sul re. Cappa. Va bene così? Sì. Ci vuole forza e coraggio, la verità. Non è che sto andando a togliermi un dente e butti il massaggio subito, non è così. Grazie, ci può un'operazione molto delicata quella. Comunque ti posso dire, Claudio, che una struttura veramente all'avanguardia, gentili, persone buone, facciocione, ce ne sono un bel. E poi ti controllano dalla testa ai piedi. Prima di operarti te ne fanno poco di viste, tu ci crederai, sembra una buffonatura, ma ce l'ha fatto anche il tampone nel QSO. Beh, normale, ci avevi qualche cosa, qualche tampone. Cappa. Tant'è vero che poi dopo mezz'ora sono andati da Emanuele, gli ho dato una bottiglia, un litro e mezzo di acqua con del prodotto mettere dentro e versa tutta quanta. Infatti gli ha fatto anche la diarrea. Ci devono fare le visite, è normale. No, io sto ancora sopravvivendo a forza di mucchini, di ghiaccio, di ghiaccio. Allora, sto aspettando, devo andare a fare una lastra. Se mi dicono che si è trasformata in ernia, questo problema che ho la schiena, se è pur certo che mi dai tutte le coordinate, sto partendo immediatamente. Solo, senza nulla, via, sto andando. Prendo l'aereo e vado. Così non si può stare, io da quando ho smesso di lavorare sono sempre a mal di schiena, sempre a mal di schiena, e mi piega in due, inizialmente era una lombociatalgia, poi non lo gioco, alla fine cazzo mi alzo dal letto che non riesco a stare in piedi, dopo un po' riesco a riprendermi, capito? Vai già. Quelli sono gli sforzi, sono andato le pompe sommerse, sono ben pisati, io ce ne so qualche cosa. Io non aggiungo la domanda, si accabbena, andare buffetti. Oi, lascio tu li veri, quando ricordo gli ultimi anni che c'ero, gli ultimi 2 anni, che a volte magari c'erano le gruette tutte impegnate, aiuto, no, non tocco io, chiamo l'officina turistana, non tocco, aio, cazzo, io ve l'agganciamo alla macchina, catena, aggancio al treno e la tiriamo su, no, non mi tocco, non mi toccava niente. cazzo noi prima lo facciamo la dirigente, abbiamo ancora 17. Sotto, vorrei capire, pesano me. A me cosa ci vuole? Dai che sono intasato, non sta arrivando acqua, dai, cerco di uscire, tutta la di uscire, a mano. Ho messo il microfono male, va bene così. Da noi, Claudio, c'era il pozzetto del palazzo, non fuori. E cosa succedeva? Che quando si riempiva la pompa sommersa di crostazioni, di detersivo e roba del genere, si bloccava, saliva l'acqua e ci allagava tutto il montacarichi dentro. E allora dovevi stare prima svuotando il pozzetto e praticamente togliendo la pompa, scrostandola da tutte le merda che c'erano attaccate, poi rimettere la pompa, farla funzionare e togliere dal montacarichi con la pompa che ci avevamo noi e buttarla fuori tutta l'acqua che c'era dentro il montacarichi, con gli stivali che entravi al montacarichi, guarda, un lavoraccio. Ma niente, però del detersivo. Il detersivo che ci attacca la pompa. Invece io ne rivugavo una metà di guru, ma capito, pannolini e ridotto. Qua non se ne vedevano pannolini e cose così, però il detersivo si incrostava e bloccava la pompa, bloccava il peso, faceva scendere il galleggiante e si attaccava anche al galleggiante, lo faceva scendere e bloccava, capito? E l'acqua continuava a andare. Sì, beh, galleggiate quella terra, quella normale, lì si attacca il detersivo e qui dovevi pulire, scrozzare con la schietta, per mettere la bagna per far sì che giri, quando sale il livello si entra in automatico la pompa, è quello normale. Se è troppo pesante rimane fermo e non gira. Deve essere sempre pulito il galleggiante, ma quella è una cosa vostra. Il galleggiante così da una pompa sommersa va pulito ogni mese. Io poi una volta sono passato responsabile, stavo molto attento a queste cose, perché i pozzetti di sollevamento florali, se i galleggianti sono sporchi, ti solleva il pozzetto, mi hai capito? Ti solleva il pozzetto quando piove, mi si dupla a me, lavorami, cioè stiamo parlando di fogne, ho lavorato di pulatore, non ho lavorato al supermercato già, quindi stavo molto attento, era proprio un ordine di servizio tassativo. Io ogni mese i galleggianti li via, li avete fatti, cicla tutto a posto, ok, meno mi vedete in giro, cioè, stavo molto attento a queste cose, perché altrimenti mi inculavano a me e inculavano anche l'azienda, perché quelle cose andavano fatte, priorità assoluta, se non gira il galleggiante che si incrosta tutto, sono quelli a terra, quelli ciletri grandi, se non gira rimane fermo, solleva il livello dell'acqua e te ne passa, te la butta fuori dal sollevamento stradale, capito? Quindi devi stare molto attento, quindi devono essere sempre puliti. E vabbè, quindi Tonino si è rientrato, tutto bene, vabbè, Manuele radio non ne ha, ma già le telefono a vedere come sta domani, dai. Chi che c'era la radio Manuele, perché non c'era? Ma tra mai, grazie, boh, a volte mi ho venduto tutto, non c'è più niente, dove va ora mi racconta? No, c'è sempre un apparato che fa tutto, un buon apparato, quindi non ha problemi. Niente, parlando di pizzi, giustamente io lavoro che faccio, a parte le denti, lo faccio anche l'idrico. E dico soltanto che quando svoltiamo le pompe a Ficcindio, la pilota pesa poco, ma gli altri motori, non so se vai all'ex geometri, se vai all'industriale, comincia a pesare già sulle 120 kg. Volete tutto smontare, portare giù e poi ripensarle. 120 kg, ma 4 kW di sollevamento sono 220, 230, 170, 180, 120 ce n'è anche, ma da un kilowatt e mezzo. Lascia perdere, Tonico, lascia perdere, immagino fatto via, se no le griglie, quando si bloccano i motori delle griglie, cioè, un altro muretto con due beni, smontando il motore, sganciando la catena, sai, con le catene grandi. Poi finalmente, oddio, già me lo sono subato, il posto mi hanno dato dopo, ma quando sono entrato, Naggio garrato di dubbi, di bombi, di gabbeni e di tutto, per carità, e oggi ne sto risentendo tantissimo, è acqua è freddo e umido che non ho preso, l'anno che ho lavorato al Covinas B, che l'avevo siamo sotto in galleria, 10 metri sottoterra, che tu vorrei stare la pitti, mi scio, cazzo, ci mi muscicavi la recce, non dicevo neanche a. E non ti parlo delle pompe che trito tutto, che c'è sia all'agraria di Sassari o a Scala di Giocca, che ci sono i binari e con la catena devi tirarlo su, e quando si incastra è un casino a Scala di Giocca. No, ma io ho già la palestra di un po' di anni che non faccio queste sforze, perché mi hanno limitato oltre 12 kg, non posso fare oltre, capito? Quindi può essere dopo questa operazione, boh, se voglio fare pensione, ya. Non me ne frega niente, fatta quello che ho fatto, mi sono fatto coraggio, l'ho fatto, sono veramente soddisfatto che ho avuto il coraggio di fare questa operazione, non di qualche. Allora, hai fatto bene, almeno fai meglio, vai. Avanti già. No, ma abbiamo fatto 15 kg al massimo potevo sollevare, però quando arrivavano le forme di formaggio intere, cosa facevi? Le facevi scendere alle commesse? Faccio un beso a poco, Lucia, per carità. Per carità, già le ho viste come le spostano quando ero a Nulvio al caseificio. Il grana angrona, che sono come grana padano, con le forme così grandi. Le ho viste come le spostano. E poi c'hanno 50 kg, 45-50 kg l'una. Ma io l'imitazione invece di peso ho 12 kg della data già. No, a me dottore del lavoro 15 kg al massimo, però ti ripeto, se non facevi le cose ti guardavano di Marucchi, dicevano cazzo, non si dà una mano. Cosa li devi dire? Le tagliavo anche in due per prenderle, perché se no non riuscivano manco a maneggiare, le tagliavo in due io, le mettevo sulla penana, poi con voltella fuori, piano piano le tagliavo. Ma quella gente che ti guarda male, perché non capisci un cacchio nella vita, perché non sai cosa c'è la persona e il perché te l'hanno dato. Innanzitutto non te lo dà un piccolo pallino, limitato di peso, o te lo dai tu stesso. Te lo danno un dottore, quindi, che laureato e sa quello che ti fa, perché sa cosa c'hai tu. Quindi le persone che sono, che ti guardano e dici, per me, va a farsi vita di non pigliarla, che non ve ne avanti, quelle sono persone ignoranti. Avanti, qua. Lo so, io ci avevo un collega che era così, qualche volta la verità avevo necessità, perché era bravissimo, era molto bravo tecnicamente, poi uno molto volenteroso, è stato operato alla linea del disco, e tutte le volte che eravamo in squadra, che mi aveva in difficoltà, dice, ma vengo, no, c'è roba pesante, non mi vuoi fare, non ti vieni a guardarmi, mi dispiace, non ci fai niente. Sempre fatto a me. E a volte lo portavo, però le facevo fare cose minime, peggio non le facevo prendere, perché proprio questo ragazzo ha avuto grossi problemi, che per poco rimane paralizzato, proprio perché ha fatto uno strappo fortissimo tirando dei motori, allineando dei motori, perché era bravissimo a allineare i motori, capito, di quei motori a puleggia che si allineano ad asse, era molto bravo, quindi era uno, insomma, che sapeva fare il suo lavoro, spostando un motore di quelli, staccando le pulegge, si è fatto male, è rimasto lì fermo, pensavamo che era morto, non si muoveva più, capito? Hanno operato, aveva un problema grosso alla spina dorsale, è tutto rimesso in sesto, anche lui mi sembra a Modena o forse a Piacenza, una cosa del genere, vicino a Bologna comunque l'hanno operato, quindi sicuramente è lì. E quando è rientrato, primo periodo era in ufficio a sorso, però non si dava pace, perché lui voleva uscire sempre in squadra, alla fine usciva ma faceva le cose minime, capito? Proprio perché il medico ha detto, nel modo più assoluto non aveva l'esenzione, non poteva manco tagliare erba, o diceva statene a sorso, che prendi il sfogliatore da una pulita al piazzale, manco quello poteva fare, capito? Nulla, praticamente non poteva più nulla. Ma cioè così, una volta che ti scrivono la terapia, quella devi seguire, sennò sei morto. Poi a me per l'ucera che avevo sotto al piede mi aveva detto che potevo stare anche seduto se mi faceva male, prendermi una mezz'oretta, stare seduto, riposarmi, togliermi la scarpa e la carta per far respirare il piede. Insomma, se ti vedeva così, ti avvedeva di poco, che si la frutti, capito? Cose così dicevo. se manco balle balle me la futti a me, tu canta canta, io già posseduto, tu vai a fare quello che devi fare, vai a sciminare duro. No, ma infatti loro non sapevano che cos'era lucina, addirittura sono venuti a curiosare quando mi sono tolto la gatta. Tania Mucco mi va, nessuna voragine mai. Ah, vista l'altra, penso che torni a me. Se non mi siamo tutti ti sarebbe piaciuto camminare, sudare, quando sudavi dal piede ti bruciava da crepare, lasciandoti le lacrime, non ti dico altro. Vabbè, ma questa gente poi così si vuole fare. Pensano che uno lo faccia per male, io quando sono caduto mi si è staccata la spalla e che poi sono entrato, mica potevo fare molte cose perché mi aveva detto lo dico, stai attento a non fare sforzi perché ti si stacca di nuovo, e invece facevo anche gli altri, capito? Facevo quanto gli altri, non è che stavo lì a cincischiare, qua attento, qua, aiuti, vai, B, la futti B, quando unisci rimane senza braccio, la futti B. Facevo le cose, facevano ancora. Capito? Avanti, Tony. Cappa. Oh già, ma quelle punture che ti facevi sulla faccia, vicino al medico me l'ho fatta, sì. No, dove c'è la polpa, dove c'è più polpa, anche più là, più a destra e più a sinistra dell'ombelico, non proprio attaccata all'ombelico, un po' più là, 3 centimetri là dall'ombelico. Ma dice che è tutto largo, che è troppo lungo. No, io me le facevo allenati, che non in faccia, io me le facevo tutto allenati, che me la facevo io in gestione, non so. Ma voi dove ci state facendo al braccio? Comunque poco fa l'ho sentito al telefono e mi ha detto che gli fa male troppo i glutei, e salutarvi tutti quanti, a Claudia, a te Gianni, e dove già vi sentite domani. Vabbè, grazie, ringrazio da parte nostra. Lo so, perché adesso ti spiego il perché devono tagliare il muscolo, hai capito? Per arrivare dove devono arrivare, c'è il muscolo davanti, devono tagliarlo, arrivare dove devono arrivare all'osso e poi chiudere, lo cuciscono, poi già si rimette a posto, deve fare un po' di fisioterapia magari e si rimette a posto prima, capito? Dovrebbe fare la richiesta per fare fisioterapia gratis come l'ho fatta io. Io ho fatta la richiesta a Caniga, c'è un centro di fisioterapisti di Caniga, te lo mandano a casa dall'ospedale, però l'ho fatto fare. Ho fatto dall'ospedale la richiesta, poi me l'hanno mandata proprio dopo un bel po' perché c'era il coronavirus e avevano bloccato tutto, ma io già me la sono fatta io la ginnastica da solo. E so qua, mi sono andato, un secondo, mi ha chiamato moglie. Yeah. E quindi hai guidato un po' di tuse macchine. No, guidare non deve guidare ancora. E io ho fatto l'iniezione, Eh sì, devo buttare la spazzatura, dai, c'ho un bustone che finiva più, va. E che l'ha fatta la buttura, Ugan? E io me l'ha giocata a me la panca, dai, io clappo. Ah, è vero, ma c'è anche mia figlia ce l'ha fatta. Ma noi ce la facciamo ogni notte, Claudio. Ah, è vero, sì. No, mio fratello non ce ne fa più, c'era la macchinetta, era automatico. Con la macchinetta lì adesso è comoda, perché si che lavorava mi dava fastidio, ma adesso può anche andare bene. Bisogna che glielo accigli al dottore, se l'ha fatto un amico mio e praticamente se mangi di più ti metti più insulina, se mangi di meno te la metti di meno, te la regolarizza da sola l'insulina. Pronto, Matti, ma fratello ci fa anche il bagno, non ne ha problemi, anche al mare, niente. Non lo so questo se si può fare. Come no, io ho una macchinetta attaccata qua con un marsupio, mio fratello c'era dentro, interna me. Ah, interna. No, io con gli amici c'è il marsupio attaccato. Marsupio, no, ho fatto la cerere niente, c'era proprio praticamente copre la mutanda, il costume, lì c'era, capito? C'era lì, è una cosa attaccata sotto il cutter, piccolina. E lui non fa altro pigiare, pigio il bruciantino, gli dà niente. No, questa qua invece del marito di questa mia collega è automatica. Le insulina che le serve in base a quello che mangia, capito? Sì, vabbè, ma devi comandarla tu, non è che è automatica, capito? No, questa è l'ultima generazione, ne ha già cambiato tre, mio fratello. Assolutamente no, e prima poverino, ci sono le gente con bitte, vatte, con le siringhe, col coso. Allora, andava alla pizzeria, un attimino, per mangiare, andava in bagno, tricchi tricchi, si bugnia, burrava, ma alla fine al centro diabetico l'hanno fatto così, infatti c'era 15 o 16 anni, ne ha 62, perché è più grande di me, quindi ha 62 anni. Più di 20 anni così, ma passato, può mangiare tutto lui, non ne ha problemi, proprio mangia tranquillo, senza dolci, vabbè, pochi, ma quando ci sono già li mangio. Anche se non dovrebbe, anche noi li possiamo mangiare, ma non ci fanno bene di certo. Boh, lui non si priva di niente, davvero non si priva di niente, soprattutto quando siamo tutti assieme, no? Non ha problemi, questo non posso mangiare, questo no, non mangia tutto, mio fratello. È sempre regolare, mai ho visto, ho sentito il fatto male o insieme a altro, no, sempre regolarissimo, non so perché, ovviamente la cura qua è buona, e vabbè. Capo di oggi, che ore sono? Le 10:10, sto male seduto, nonostante abbia una portata all'ufficio di una favola, ma sto male di seduto, mi fa male un po' la schiena, sia che vi lascio, e vado a sdraiarmi nel divano. Dai, signori, ciao Tonino, piacere averti riascoltato, ben rientrato, tanti auguri per la guarigione, se senti la manuale salutamelo, glielo chiamo, e ciao a te Gianni, vai, io passo in correttivo, vado un po' a sdraiarmi nel divano. Ciao Claudio, ciao, no, chiudo anch'io che adesso mi chiama lì, capito, è tanto casino, poi si trattiene, non posso mandarcela. Dai, e vado, che verso le 10:15 mi chiama lì, eh? Andiamo bene, ci sentiamo, ciao Turi, buonanotte, fatti sentire, dai, adesso già si libero. Ciao, ciao Claudio, mo corretti, e ciao Gianni, e anch'io mi sdraio un pochettino perché sono chiuso per fare la baracchivata, la cosa però piena. Non proseguo, dai, di serata e state bene, a domani. Ok, ciao a tutti, la buonanotte. Tonino. Ciao, ciao Tonino. Magari facciamo una prolunga col microfono normale. La sera se vuoi chiacchierare, sdraiato, facciamo una prolunga, capito? Non c'è problema. Tony, sei vicino proprio al letto, non c'è problema già. Oh, Claudio, tranquillo, grazie a te. Tony, buonasera. Ciao Bomboli, dai, sto chiudendo io perché non ce la faccio più a stare seduto, dai. Ci aggiorniamo domani, mi piace in compagnia di Torino, Bomboli. Ciao a domani, ciao a tutti. Comunque Claudio, risonanza magnetica, la miglior cosa della lastra. Quello devo fare, ma non lo posso fare perché è un casino, non c'è posto, non mi hanno accettato, adesso vediamo. Se vado a pagamento a Tiri, a Cagliari, a Vitano, a Nuvo, Rosso, adesso decido poi, ti faccio sapere. A me me l'avevo fatta anche la risonanza, non solo quella che avevo fatto qua io a giugno, però me l'avevo fatta anche lì. E siccome c'ho l'esenzione, c'ho l'esenzione perché sono il ticket, ma comunque non ho pagato niente. Quindi lì ti fanno tutto. Lo so, vabbè. Vediamo, dai, ci sentiamo ragazzi, vai con voi, buonanotte. Scappa, ciao, buonanotte a te, Claudio, buonanotte anche a Gianni. Tony, sta a posto? Tutto a posto, ciao a tu, ben sentito anche a te. Sono arrivato ieri sera e ti posso dire che insomma non è che è perfetto, no, perché quando cammino anche per il nostro fatto che ho fatto il viaggio di ieri da parte all'altra, treni qua, treni là, sotto la pioggia, coincidenza quello con l'altro, ho detto la parte Emanuele, a me mi sa che non avrei bucato l'erria, me l'avrei bucato anche tu. Vabbè, piano piano, piano piano, vabbè, tutta quella trapazzata. Vabbè, purtroppo è così, dai, quando tu chiedi a persone ignoranti, è successo casino per te, l'avevo perso delle ore, per niente. Ci siamo stati un giorno più a Milano, ma non fa niente, insomma ti ho fatto anche per l'aereo delle 9, per anch'io ho dovuto prendere quello delle 3:15 per Olbia, ma ho rimediato lo stesso, io alle 8:10:15 ero già a Sassari, e mi interessava arrivare a Sassari, non mi interessava altro. Comunque. e più l'ho fatto tu, e quello mi fa anche molto piacere, sono riuscito a superare, diciamo, la mia grande paura, perché non mi sono mai operato in vita mia. E dirò, se un domani, siccome ho tre ernie, due piccole che non mi hanno operato, che non sono da operare, è una grande, quella grande è infatti che non mi dà più fastidio, ma non affronta. Quelle piccole, se un domani dovesse succedere che si ingrossano e dovesse fare male, che sarà molto difficile, perché adesso metto a dieta e poi tra l'altro farò il mondo ginnastica, se deve succedere andrei ben volentieri a operarmi, perché sono stato veramente bene, non mi aspettavo una cosa del genere. Io così, dai, meglio così, anche tuo, ma adesso non mi viene il nome, cavolo, volevo dire talmente veloce. Mio figlio c'è Emanuele. Yeah, anche lui com'è andata? Bene, perché io sono stato soltanto un'ora in operatoria, perché la mia si era calcificata nella schiena dorsale. Lui c'è stato 4 ore, ha rotto 3 tagli, uno è l'ernia, uno è la gabbietta e 2 per il placco con le viti. Poverino, cavolo. La sua era molto più complicata della mia. Io dirò, non ho mai assistito a una anestesia generale. Praticamente quando ho detto l'anestesista, ma mi sto facendo l'anestesia? No, troppo. Quando ho messo troppo, io non mi sono chiusi gli occhi. E ti posso dire una cosa, come chiusi gli occhi mi sentivo Antonio Antonio, mi sono svegliato il corpo, per me sono passati 1 o 2 secondi, era di più. Tutto fatto, ed era un'ora sotto i ferri. Scappa, no, meglio così. Ma io ci è andato tutto bene. Adesso piano piano, un po' di riabilitazione, si va. Sai cosa devi va? Vabbè, me lo so, mi hanno dato già dai 30 ai 45 giorni di riposo, ho detto tutto. Ma e poi va tra poco, ti andi in pensione, quanto ti manca? Qualche mese, no? Almeno senza più tranquillo, là. Magari qualche mese, agosto. Vabbè, ce n'è già uscito febbraio, fai marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 6 mesi, è già passato oggi. Guarda, manco di Nandi giù in vacanza e via. Ma io allora, tu, questa cosa era da 6 anni fa, dovevo farmela e ho avuto super paura, mi facevo delle cure iniezioni e mi passava. Dopo un'ora e mezzo mi riveniva. Un'altra cura e mi passava. E poi come mi sono fregato, l'ultima volta invece mi è venuto e non mi andava più via dolore perché si era incasinata l'ernia, quindi per automagia fino a capire come lavoravo. Guarda, non ce l'ho fatta più, mi sono deciso, cioè vado a operare e basta, mi sono rotto le palle, e così ho fatto. Ho detto così, quando vado in pensione, sono una persona sana, tranquilla, cammino dritto, non posso fare giù, cammino bugiato. No, allora, Emanuele, cioè, riesce a camminare, sì, a fare un pochettino, ma detto che è un po' più peggio di te. Sì, adesso si affomiglia Emanuele, giustamente, però gli farò male i glutei come a me. Beh, la ferita è 3 su 10, allora lui c'ha dietro 2 ferite che di 7-8 cm, e un altro a fianco, io ne ho una di 4 cm, al centro della schiena. Quindi sono, vabbè, 2 operazioni diverse, sempre c'ho un'operazione delle carte, mi hanno raschiato anche, giustamente, la mia che si era calcificata, hanno avuto un po' di lavoro, perché poi la sera è venuto il dottore che mi ha operato, però ha detto che era posto. Comunque tutto ok, perfetto, sono contento. Niente, ti posso dire che sì, in casa stesso camminando sento dolore ai glutei, un po' nel cedo, non posso pretendere perché non l'ho detto, lì ce l'aveva anni, quindi si era appena sentita l'ernia, appena uscita, subito si operava, era diverso. Purtroppo 10-15 giorni ancora per passare questi dolorini qua. E vabbè, però piano, e poi c'è passato anche questo qua. Lo so, piano piano sì. A poco già, alla fine poi già passa tutto, là. Non bisogna sforzare e via. Scappa, infatti non devo fare sforzi. E io stasera ho preso anche la macchinuzza, e vabbè, c'avevo queste buste di mondetta grande, o casino, a tu come facevo, perché no, a me non piace tenere la... Allora io c'ho un bidone grande grigio fuori, con la busta grande, che la piccola mondetta che faccio in casa poi, chiudo la busta e la butto nel bidone fuori, che a fine settimana la butto via. Siccome sono mancato quasi 12 giorni, quindi c'era la 50 qui e insomma si è riempito, ma si è riempito qualche altra busta, io stasera piano, ho provato le 3 moto, adesso il moto prima ho colto la macchina, ci ho messo le buste e sono stata buttata la spazzatura. non mi piace avere l'attrezzatura così in casa. Ti potrei far aiutare un pochettino. E da chi? Non ero, perché casa mia è fuori le corti, diciamo sotto la veranda, però a me tenere l'attrezzatura così non mi va. E chi chiedo? Qua se chiede un favore fare le domande di rigore, e allora Luta, non chiedo niente a nessuno. Però nessuno mi deve chiedere niente a me, anche dico non posso fare niente. Non abito vicino io, se no te l'abbia bussato in macchina, molto volentieri. Te l'abbia lampadio, neanche. Ci avrei buttato io stesso. Vabbè, non preoccuparti, dai. Tanto te l'abbia fatto lo stesso, piano piano. Domani dovrò prendere Emanuele, dovrò andare alla dottoressa, faccio la farmacia, anche la medicina. Io ho ascoltato che mi sono fatto bene la pancia stasera. E quindi, vabbè. La mia soddisfazione è che sono riuscito a vincere la paura che avevo di operarmi, perché è la prima volta in vita mia, in tanti anni, di subire un'operazione e per un'anestesia generale. Ciao, vabbè. Dai, piano, meno male, dai, sono contento, piano piano, piano piano. C'è la riabilitazione e via. Poco a poco, passo a passo e sempre al mendi. E capa, l'importante è che prima non sappiamo la salute e tanto. Va bene, allora io mi sdraio perché sono seduto, a me non mi sta risultando tutto, non mi è stato problema di sdraiarmi per la schiena. Adesso, dopo domani mi dietro la medicazione alla mia dottoressa. Sono dei punti che mi hanno messo che mi scompaiono da soli, capito? Quindi meno male. E niente, riposo assoluto, quello senza ombra di dubbio. Ok, mi sa che vado a telefono. Tanto, ci sentiamo, stammi bene, salutoni e ciao domani, ciao ciao. Ah, stammi bene tu, ciao ciao. Ok, ciao.